Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. E bentornati a tutti carissimi amici di Runtime Radio, bentornati a questo nostro show gagliardo e tosto che tutti amano e noi amiamo insieme a tutti gli altri. Bentornati alla terza stagione, incredibile, chi l'avrebbe mai detto, di Quando eravamo futuro. E do anche il bentornato giustamente a Carlo Sant'Agostino. Ciao a tutti, eccoci qua, siamo tornati. Ciao. Purtroppo ti dico una cosa tecnica, c'è un brutto eco di ritorno nelle cuffie, però non so. Ma eco mio o eco tuo? Della mia voce. Ok, vabbè, vedrai che fra un po' sparisce, più parlerai e più sparisce. Che Skype ha bisogno dei suoi tempi, come si dice. Comunque poi torneremo ad utilizzare altri strumenti, ragazzi, che poi piano piano, come passerà un po' il tempo, chiaramente cercheremo di ripristinare un po' tutte quelle che erano le abitudini della scorsa stagione, però quest'anno siamo partiti un po' in ritardo, diciamo, anche mentalmente. Bentornato anche a Davide Gatti. Buonasera a tutti quanti. Noi dovevamo riprendere poco dopo le vacanze, ma chi se ne ricorda più le vacanze ormai? Esatto. Ormai ci stiamo puntando alle vacanze di Natale. Sì, che poi tutto sommato, no? Fra, diciamo, un paio di settimane cominciano gli spot, secondo me. Un paio di settimane arrivano i panettoni. Ma guarda, io oggi in strada ho già visto delle luminarie accese, giusto per dire. Stavo facendo i test già. Vabbè. Comunque niente, eccoci qua, dai, ci siamo. Bentornati, quindi vabbè, ricordiamo Carlo Sant'Agostino, archeologia informatica, canale insomma che adesso tornerà ad essere attivo, poi insomma ci sono varie cose in ballo, il podcast tornerà e come sapete insomma sarà una stagione anche questa piena di appuntamenti interessanti e poi ovviamente anche Davide Gatti che ha superato i suoi 20.000, diciamo sta a 80.000 dal Silver Button e a 990.000 dal gold. Vabbè, ma poi il gold penso che non ci rivolgerai manco più la parola, insomma, quindi sarà, non me la rivolgo più neanch'io. Esatto. Allora io voglio approfitto per ringraziare tutti coloro che durante questi mesi di assenza hanno fatto sentire, cioè ci hanno comunque fatto i complimenti e hanno apprezzato la trasmissione, in particolare Quando eravamo in futuro veramente c'ha un piccolo nucleo di super affezionati e soprattutto coloro che hanno fatto capire che mancava, no? il Quando eravamo in futuro nel palinsesto, diciamo che alcuni erano in crisi d'astinenza, quindi li ringraziamo, no? Perché insomma vi sarà capitato pure a voi, no? Da qualcuno che diceva magari quando tornate questo programma ci piace tanto, vi è capitato, no? Penso insomma sì, te l'avevo segnalato proprio credo settimana scorsa, mi avevano scritto appunto dicendo ma quando eravamo futuro, quando è che inizia la nuova stagione eccetera, però tutti abbastanza in attesa, penso anche a Davide credo abbiano scritto, ma qualche amico sì mi ha avvisato, ma allora è finito, com'è? Basta per sempre, ma in realtà no, io avevo detto che non sapevamo come continuare poi sì, no, ma adesso raccontiamo un retroscena su questa cosa, perché in realtà quando ci siamo contattati dice beh ragazzi allora che facciamo per la terza stagione Quando eravamo futuro, abbiamo detto tutti vabbè oramai abbiamo detto tutto, no? Cioè nel senso quello che c'era da dire, poi abbiamo aperto il documento del piano editoriale e in realtà ci stanno un sacco di argomenti ancora da trattare tra cose serie e facete, quindi insomma continueremo anche per questa stagione. Vi avvisiamo che la nostra intenzione è quella di fare un giovedì sì un giovedì no, perché diciamo tutti i giovedì comincia ad essere un po' un impegno per una trasmissione come questa, che fino a che raccontavamo cose giocose, ok, ma quando poi è dovuto subentrare anche un racconto, diciamo così, un po' più strutturato, quindi cercare di costruire delle puntate così come è stato fatto, insomma, con tutta una preparazione, ecco, diciamo che in una settimana non è così facile riuscire a costruire un documento, insomma, di puntata, e quindi questa è un po' la nostra decisione. Vi ricordo anche, prima di partire, che Runtime Radio ancora, purtroppo quest'anno, forse per il grosso lavoro che abbiamo fatto nei 2 anni e mezzo precedenti, diciamo, sta partendo con una certa calma, stanno, diciamo, siamo un po' diesel, ecco, questa è una cosa, ci tengo, mi rendo conto che alcuni magari sono rimasti un po' così, oppure non hanno visto grossi aggiornamenti, e quindi magari qualcuno si è disiscritto da Patreon, insomma, ecco ragazzi, non è inutile che vi diciamo sempre il suo discorso, ricordatevi sempre che quello che noi stiamo facendo lo facciamo anche grazie al vostro contributo, e quindi insomma cercate di non abbandonarci, perché adesso torniamo anche con delle belle, saranno delle belle cose, belle storie, ritorna Pocrasi, ritorneranno anche belle interviste fatte da me a altri soggetti, insomma vedrete che sarà una bella stagione. Invece Carlo è andato a finire su un canale YouTube, hanno intervistato, ho visto, ti hanno intervistato Carlo? Sì, mi hanno intervistato un canale, per in realtà non per la parte, diciamo, faceta che faccio qui in Runtime, quindi la parte di passione, quindi di archeologia informatica eccetera, ma mi hanno intervistato per il lavoro che faccio, quindi per il fatto che io sono un CTO di una società di informatica che si occupa di ricerca e sviluppo in primis, però quest'anno è stato lanciato poi uno dei nostri progetti su cui stavamo lavorando, che è un portale di metaverso, e siccome generazione di metaversi, diciamo così, si chiama LiuCity, e siccome è un argomento che ha molto hype, no? Molto interesse, c'è molta, se ne parla parecchio in giro, insomma, di metaverso e di tutto quello che c'è collegato, quindi di blockchain, criptovalute, NFT e tutto quanto, droni mi hanno intervistato, insomma, per chiedendomi se potevo magari introdurre questi temi e spiegare, dire cosa ne pensavo, e quindi ho introdotto, ho detto quello che pensavo, il podcast e il canale e podcast, perché anche podcast audio lo trovate sia su YouTube nel canale che si chiama CTO Show, credo, aspetta un attimo che non me lo ricordo più, CTO Podcast si chiama il sito, ctopodcast.it lo trovate, ecco. Lo conduce Alex Pagnoni, e trovate sia il podcast audio che il canale YouTube con la mia intervista, e sì, spiegando cos'è in realtà, cioè, ho cercato di spiegare in maniera semplice che cos'è proprio il metaverso, la blockchain e tutte le cose collegate, e quindi sicuramente qualcuno probabilmente ascoltando la mia spiegazione potrà magari farsi delle idee, altri magari diranno che ho detto qualche stupidata e magari mi blastimeranno contro, può essere. Comunque sono qua pronto a prendere. Vabbè, se vuoi io lo faccio anche a prescindere, senza nessuna base di consapevolezza. Io so bene di cosa ne pensi degli NFC, quindi se vuoi te lo dico anch'io quello che se ne penso. Comunque, e invece facciamo i complimenti anche a Michela, che nel portale iodonna.it è stata messa al secondo posto tra i podcast internazionali condotti da donna con Pocrasi. Questa è una cosa inattesa, ma insomma grande soddisfazione soprattutto per Michela, perché comunque con Pocrasi ha fatto veramente un ottimo lavoro, e in più tanta attenzione sta raccogliendo anche Walter Vanini con Data Nightmare, che oramai diciamo sempre più spesso e sempre in tanti ambienti si cita, insomma, il podcast Data Nightmare, e questo è anche un altro motivo di orgoglio. Invece, ancora prima di iniziare, Davide invece domenica va in gita. Domenica va in gita, vai. Sì, no, approfitto di questa possibilità per ricordare a tutti coloro che mi conoscono, che vogliono vedermi, venirmi a salutare, sarò al Roma Maker Fair, che è una manifestazione di smanettoni, di gente così un po' smanetta. Ci sono per 2 anni di seguito. Esatto, cioè, la manifestazione c'è già da domani, venerdì, sabato e domenica. Io sarò lì solo domenica insieme ad altri amici youtuber tipo Piera Isa e molti altri. Siamo in giro. La cricca di quelli che contano, insomma, tu vorresti dire. Sì, più no, okay. Che contano, no, però che sono smanettano forte. smanettano forte, io non lo direi così. Insomma, no, comunque, dicevo, siamo lì in giro, per cui magari non ci trovate, ma se, alle. A un certo orario, che alle 18 e alle 16:30 saremmo in una certa area G4, area B, davanti al gazzometro grande. Adesso io non so dove sia, però voi lo troverete. E comunque tutto sto annunci li abbiamo già messi da tutte le parti. Chi vuole venirci a trovare e chi vuole venire a vedere una bella manifestazione, faccia un giro a Roma. Certo. Ok, ragazzi, io direi che a questo punto il tema della puntata. Oh, scusate, ho fatto cascare. Tutto l'ambaradam, che bello. No, non avevo sentito niente. No, ma l'ho sentito io sulla mia mano. Voi non avete sentito niente e meno male, direi anche. Comunque io introduco la puntata in un modo un po' diverso, diciamo, perché la puntata l'ha pensata Carlo, chiaramente, poi insomma l'abbiamo anche, diciamo, preimpostata anche un po' insieme, no? Però insomma, siccome questa è una puntata che parla non soltanto dell'argomento specifico, ma anche dei personaggi che sono connessi all'argomento specifico, io voglio far sentire una cosa molto molto breve ma molto carina. Ciao amici! Sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca in quattro, non si sbaglia. Una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Iced Tea. Hey gang, Lipton Iced Tea! Great idea, Dan! Capito? Good idea, che c'era anche la pubblicità precedente del, questa è quella del Lipton Ice Tea, Ice Tea, esatto. Del tè Lipton, proprio, che diceva Lipton per me numero uno, che poi uno. Dan Peterson, che è un personaggio che poi sicuramente poi citeremo anche più avanti, è veramente un personaggio, cioè, perché è una persona che Simone, scusami, però non abbiamo detto il tema della hai ragione, scusa. Vai tu poi dopo. Vabbè, il tema è praticamente parleremo del periodo in cui negli anni fine anni 70, inizio anni 80 e poi da lì in poi sono arrivati, diciamo, gli sport, o hanno iniziato ad avere un successo mediatico anche sport tra virgolette alternativi e non i classici o il classico calcio, che un po' monopolizzava assolutamente quelli che erano i palinsesti televisivi italiani e comunque la passione sportiva italiana, che l'ha monopolizzata per tanti tanti anni, più qualche altro sport che poi dopo citeremo. Ma da quegli anni, grazie, se vogliamo, all'ingresso delle televisioni private in primis, e comunque anche alla comunicazione che aumentava, io metterei dentro anche i videogiochi che iniziavano a diffondersi e i cartoni animati giapponesi anche lì, che hanno dato una grossa spinta, che comunque derivavano sempre dalla diffusione delle televisioni private, hanno iniziato a diffondersi sia la cultura che, diciamo, la passione per sport che non erano o non erano mai arrivati prima in Italia, o comunque non avevano quel successo che poi avrebbero riscosso negli anni successivi. Quindi un po' questo è il tema della puntata. Dan Peterson sicuramente è uno di quei personaggi che ricordiamo che ebbero successo in quegli anni. Ricordiamo anche ben volentieri, volendo, no? Al di là di tutto, perché oltre a essere venuto in Italia, diciamo, essere entrato in Italia come telecronista, che ha portato alcuni... No, lui è entrato in Italia come allenatore. No, dopo è diventato allenatore, prima ha fatto il telecronista. Cioè, nel senso, infatti la cosa incredibile pensavo al contrario. No, infatti la cosa incredibile è che praticamente tutti pensavano che lui in realtà fosse un giornalista, un telecronista, invece in realtà lui era comunque un tecnico, no? Nel senso, era un coach fondamentalmente, e quindi questo, insomma, ha aumentato poi quello che era un po' il suo mito. Ma siccome era anche una persona con una grandissima parlantina, no, ma guarda che, allora, tu guarda, perché come mi ricordavo io, guarda che stai sbagliando, Simone. ho appena controllato. Ah, ok, va bene, va bene. Nel 73 è arrivato, è iniziato a fare l'allenatore di basket. Ah, va bene, nel 73 allora sì. Sì, io mi ricordo che infatti lui nella fine degli anni 70 vinse, poi tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 fece un grandissimo successo con la, quella che adesso è l'Olimpia Milano, che all'epoca la chiamavamo Billy. Non so se ti ricordi, Davide, tu anche tu che vivi a Milano, era Billy. Sì, sì, ve lo ricordo, ma anche Billy se era lo sponsor che era la, l'aranciata praticamente, sì, che poi era l'Olimpia, in realtà era l'Olimpia Milano, e lui era l'allenatore, Dan Peters era l'allenatore del basket. Infatti la prima pubblicità, quella del tè Lipton, non quella che hai messo tu, ma la prima, quella proprio dove lui fa numero uno, la faceva proprio come allenatore del Billy Milano. Lui arrivava, sì, con i giocatori, sì, esatto, e diceva: io alleno la squadra di basket, tutti i campioni del team numero uno, campione, sì, insomma, che lo scendevano dal pullman, dopo, facevano il break, no? Cioè, nel senso, sì, poi dopo ha iniziato a commentare le partite nell'NBA. Anche lì subito dopo aver vinto gli scudetti con l'Olimpia Milano, Coppa Italia, Coppa dei Campioni eccetera eccetera, poi ha iniziato a commentare le partite di basket NBA. Comunque, per fare un po' un panorama, perché ovviamente poi Dan Peterson, cioè veramente, io penso che quelli della nostra generazione gli hanno voluto bene, perché al di là di tutto era veramente un personaggio istrionico, una grande capacità proprio anche tecnica, no? Di riuscire a fare televisione, a fare radio e ovviamente a fare quello che era il suo mestiere, ossia praticamente l'allenatore. Però diciamo che perché anche in questo caso storico, quindi con l'arrivo di questi nuovi sport, che erano sport che esistevano da tanto tempo, che però in Italia non venivano mostrati, perché anche qui c'è stato l'elemento di rottura, come in tante altre cose, no? Perché praticamente diciamo che l'offerta televisiva dal punto di vista sportivo in Italia, soprattutto solo con le reti pubbliche, era estremamente limitata. Quello che veniva presentato era sempre il calcio, che era comunque un po' una sorta di fulcro sociale del nostro paese, e anche il calcio non veniva poi mostrato così come siamo abituati oggi. Cioè si vedevano i servizi in alcune situazioni, c'erano alcune trasmissioni che facevano i collegamenti dei campi, dicevano i risultati, facevano qualche immagine, e a volte per quelli più anziani, insomma della mia età, dove non arrivava ovviamente l'RVM, c'era il disegnatore, no? Cioè nel senso che faceva vedere si viveva alla radio, si viveva più alla radio quasi. Perché quindi praticamente arrivavano questi disegnatori che disegnavano praticamente la tavolozza dove c'era il disegno dell'azione con le righe che facevano vedere dove si muovevano la palla e via dicendo, insomma. E questo ha molto influito poi sulla cultura sportiva del nostro paese, che era un paese che faceva pochissimo sport da un certo punto di vista, e a volte gli unici sport che emergevano oltre al calcio erano tutti quei sport dove l'Italia emergeva per qualche ragione, ad esempio la pallanuoto col Sette Bello, che è sempre stato storicamente insomma una squadra forte, e la squadra di scherma, ad esempio, perché anche lì c'è una tradizione proprio sportiva abbastanza importante, o se no quando c'erano le Olimpiadi, le Universiadi e tutte quelle. C'erano anche, io ne ho segnati altri due tre importanti. Vai. Italiani erano il ciclismo. Ah, il ciclismo, hai ragione, ciclismo, bravo, 50, bravo. 60, con bravo, Monti, è vero, sì. Anni 70 e prima ovviamente. E la Formula 1. Coppi, eccetera. La Formula 1, importantissima in Italia perché è sempre stata la Ferrari, certo. ma anche negli anni 70 ricordiamo tantissimo il tennis, che è stato proprio in quegli anni lì. Ok, sì, si trattava, ma non è che tu vedi Panatta, eccetera, sì. il famoso. Sì, però come dici tu, quello, il tennis è stato importante per il perché c'è stato un emergere, diciamo, di qualcuno molto forte in Italia, insomma. Che sì, anche perché l'epoca di Panatta, intorno agli anni 70, l'Italia vinse addirittura la Coppa Davis, quindi esatto, una sorta di campo. E poi vabbè, ho scritto anche la box, però quella era popolare negli anni 50, primo Carnera, eccetera. Io ricordo mio nonno che guardava, esatto, la box con quei collegamenti strani alle ore improbabili, a volte anche di notte, no? Cioè, nel senso che c'erano questi grandi match storici che venivano trasmessi anche in Italia, ma erano comunque delle grosse eccezioni, diciamo che sostanzialmente fino a che non è arrivata appunto la rottura, questo elemento di rottura delle TV private che hanno portato questi nuovi giochi, diciamo così, noi eravamo un po' scarsini da sto punto di vista, ma anche il perché c'è stata questa rottura, anche in questo caso abbiamo spiegato in altre occasioni, diciamo che laddove le TV private che cominciavano ad essere numerose, ad avere un grosso quantitativo di orario di palinsesto da dover sciovinare, diciamo che poi alla fine non potevano accedere magari a determinate licenze, non potevano accedere a determinati servizi perché non avevano magari la diretta, e quindi andavano a pescare, diciamo, quegli sport che da noi erano prevalentemente sconosciuti e che in pochissimo tempo sono diventati mitici, cioè nel senso hanno comunque creato un grosso entusiasmo pure dal punto di vista della cultura sportiva, perché se alcuni diventavano solo erano solo belli da vedere in televisione, no? Adesso ne citeremo alcuni, altri invece magari hanno, cioè ad esempio il basket, poi la pallavolo, tutta una serie di sport che poi sono piano piano entrati addirittura fino agli anni 90, quando mi ricordo c'era gente appiccicata alla televisione a vedere le dirette delle regate di Luna Rossa e cose del genere. Esatto, che, insomma, anch'io ho dato. Sì, no, perché poi dopo eri comunque anche curioso, no? Però erano tutte cose che diciamo spezzavano proprio la nostra tradizione da quel punto di vista, e hanno portato anche tanti giovani, ma questo l'abbiamo penso detto anche in un altro episodio, ad approcciarsi con degli sport che appunto da noi magari erano poco conosciuti, insomma. E questo è un po', diciamo, l'introduzione, senza considerare anche Tele Monte Carlo, che Tele Monte Carlo invece poi alla fine era un'anomalia in questo contesto, perché Tele Monte Carlo era sì un'emittente non italiana, perché era Tele Monte Carlo, ma trasmetteva sul territorio nazionale e non aveva i vincoli nazionali, quindi Tele Monte Carlo per esempio rispetto alle altre già trasmetteva in diretta, se tu ti ricordi, Carlo, e sì, addirittura tanti eventi sportivi, e Tele Monte Carlo anche lì ha contribuito, perché ha portato per esempio la Premier League in Italia, quindi il campionato inglese, i campionati delle altre nazioni anche a livello calcistico, quindi cose che noi non vedevamo, quindi grandi blasoni internazionali, tutte cose che da noi erano tutte, non dico sconosciute, ma insomma non c'erano, insomma, ecco, questo è un po' l'introduzione, vai Carlo. Sì, come ho detto, poi c'erano quegli, abbiamo accennato al discorso di sport classici, e tu ovviamente fai riferimento al discorso delle televisioni private, che sono state, sicuramente è stato quello il periodo in cui poi si è iniziato a diffondere, diciamo, la visione, la cultura degli altri sport. Io ho individuato poi, facendo una breve analisi, altre, secondo me ovviamente, da quello che ho visto, due motivazioni che hanno portato alla popolarità di altri sport, diciamo, all'interno di quello che era il panorama nazionale. Uno di questi due è l'influenza degli Stati Uniti, perché noi abbiamo avuto negli anni 80 soprattutto una fortissima influenza dal punto di vista culturale dagli Stati Uniti, soprattutto nell'ambito degli spettacoli, film e telefilm proiettati in Italia, che ci hanno un po' diciamo acculturato, comunque vincolato su quella che era la vita negli Stati Uniti, e quindi abbiamo iniziato a vedere dove nei telefilm si giocavano degli sport, si vedevano degli sport che da noi praticamente non erano quasi esistenti. Certo. Uno su tutti, per esempio, il fatto che tutti andassero a giocare a bowling. In Italia non c'era il bowling, però col fatto che continuamente vedevamo il bowling, ricordo soprattutto Happy Days, dove il padre tanti sitcom, la loggia, oppure i cartoni animati tipo i Flintstones, insomma il bowling, sì, esatto. Era uno sport che da noi non c'era, e è diventato poi in quegli anni, negli anni 80, hanno iniziato a aprire le sale bowling, diventare uno sport soprattutto i ragazzi, i giovani, i vecchi, diciamo mio padre, mio nonno andavano a giocare a bocce, no? Perché c'erano le bocce in Italia, no? Che è uno sport che ormai sta... Ci sono ancora, ma sta scomparendo rispetto a quanto veniva giocato. Io mi ricordo da piccolo era pieno di bocciodromi, adesso devi andarne a cercare uno se vuoi. Ma hanno iniziato invece ad aprire le sale bowling, che erano diventati dei centri di divertimento, tipo la sera cosa andiamo in pizzeria, poi andiamo a giocare a bowling, una roba del genere. E però da lì poi è iniziato ovviamente anche a crearsi gente che lo giocava anche in maniera agonistica, giusto? Magari qua c'è Davide che può dire qualcosa su questo, se non sbaglio, giusto Davide? È sparito Davide. Davide? Giusto, Davide. No, so che suo fratello giocava a bowling in maniera diciamo agonistica, però vabbè, andiamo avanti, magari poi quando ritorna Davide riprende questo pezzettino qua che ce lo siamo perso per strada. E invece un altro degli sport che in quegli anni non c'era, mi sa che è proprio caduto Davide, perché è caduto, sì, non lo sentiamo più. Ed era allora il football americano, non proprio nel football americano, ma sicuramente ha portato un po' la passione del rugby in Italia, che ha iniziato comunque a diventare popolare in quegli anni e poi è sempre in crescita ancora adesso, addirittura negli ultimi anni è cresciuto ancora di più. E anche del baseball, anche se il baseball rispetto al bowling è rimasto più limitato non ha mai preso più di tanto, anche perché però in alcune regioni italiane sì, per esempio a Parma, in provincia di Parma era quasi lo sport cittadino, ecco, non ho detto nazionale perché non era nazione Parma, però se vai a Parma tutti giocavano a baseball e penso ancora adesso è uno sport molto molto diffuso in quelle zone. Ci sono alcune zone enclavi, diciamo, in Italia dove è diventato uno sport molto molto popolare, anche in alcune province intorno a Milano, in alcune province era diventato uno sport molto giocato, per esempio il famoso è Nicola Faso, e poi che ha coinvolto tutti gli Elio e le Storietese, sono sempre stati grandi fan di questo sport, l'hanno sempre giocato, adesso sponsorizzano una squadra, poi credo che Faso sia diventato anche allenatore, adesso non vorrei dire una stupidata, comunque ha sicuramente giocato tanto e partecipato tanto a questo sport. Bisogna anche essere un po' onesti, cioè nel senso che gli americani ci hanno sempre preso in giro perché dicevano che il calcio era uno sport noioso, cioè il baseball è la morte. Non diamo giudizi, che poi guarda, ti menano qualcuno che gli piace il baseball. No, vabbè, però, io non dico niente perché io non capisco un cazzo di calcio né di baseball, quindi non guardatemi. Ma il baseball è complicato proprio concettualmente, lì c'è proprio tutta la... l'arzigogolamento mentale dell'americano, insomma. Ecco, Davide. Bentornato. È crash, è resettato il modem, così. Così. Vi avevo lasciato che state parlando di bowling, siccome volevo... volevo darti la parola a te. Sulle bocce, perché dice che tu c'hai un professionista in casa, quindi... Di bowling. Sì, in pratica il bowling, c'è una cosa curiosa, io abitavo a Cinisello Basso per tantissimi anni, in una via, si chiamava Viale Romagna, e proprio in Viale Romagna a Cinisello c'era il bowling del nord, che magari chi giocava a bowling in quegli anni, ce n'erano due o tre a Milano, non è che ce n'erano 3.000, e c'era questo qua di Cinisello che era uno molto molto molto grande, dove si facevano anche tornei importanti anche nazionali, poi ce n'era uno a Milano, un paio a Milano, e quindi era molto gettonato, e casualmente ci si abitava a 5 minuti a piedi, e quindi tutti i miei amici, tutto il mio palazzo, tutti insomma, il bowling era diventato lo sport, cioè Cinisello era i bowlingari dei noi altri, cioè, proprio tutti con le palle, tutti a casa pieni di palle di bowling da tutte le parti. Sì, devo dire che a un certo punto è esplosa sta moda, mi ricordo che anch'io ce l'avevo la mia palla da bowling, sai? Una cosa ridicola, poi tutto sommato. La sera, sai, quando dove andiamo stasera? Andiamo in pizzeria, andiamo qua, andiamo lì, andiamo al bowling. Era una delle opzioni per passare la serata, perché comunque dentro al bowling poi c'era anche un mondo, non era poi solo il bowling, c'era anche, vabbè, la sala giochi con i giochini, c'era il fast food, c'era ci si ritrovava, ci si divertiva, il gioco del bowling era quasi una roba di insomma, quasi secondaria, a dire la verità, perché poi alla fine bene o male nessuno ci giocava bene. Poi invece ci sono quegli appassionati, tra cui i miei fratelli, che invece hanno cominciato a giocarci molto più intensamente, tra cui uno che è uno dei miei fratelli, che praticamente ci giocava così tanto che è diventato, faceva parte di una squadra di sempre di Cinisello, che comunque poi era diventata molto popolare, si chiamava Panda Cinisello mi pare, e alla fine era diventato anche un, c'erano le serie anche lì, serie A, serie B, serie C eccetera, è diventato un A che poi non so cosa significhi, magari era giusto un... però mi ricordo che andava in tutta Italia a giocare, andava in molti posti e anche qualche occasione in cui è andato a fare qualche gara anche all'estero non troppo lontano. E mio fratello è stato uno di quelli che ha fatto anche diversi 300, che per chi gioca bowling sa che vuol dire fare tutti strike dal primo all'ultimo per tutti i tuoi 10 turni, che poi sono 11 turni. Vabbè, allora era un pro, tuo fratello era un pro. È capitato era due pro, volte, pro. È capitato tante volte, tre volte, però diciamo arrivare a punteggi elevati era abbastanza tipico. Lui giocava come nei film, no? Con l'effetto, sai, proprio quei tiri proprio spaziali con l'effetto. Invece tiravo la palla dritta, come proprio. Ma che poi dritta non la potevi tirare, quindi un minimo d'effetto gliela dovevi da sempre, perché dritta, non, dritta è impossibile, perché comunque è, cioè è a conca, no? Sì, però l'effetto come lo volevo dare non ci riuscivo, cioè veniva a caso. Io tiravo semplicemente mirando il centro. Se andava dritta andava bene, se andava storta finiva dall'altra parte. Comunque vabbè, non avevo l'occhio, l'abilità. Però insomma, questo fratello insomma ha vinto anche dei premi, insomma un sacco di coppe eccetera eccetera, e diciamo che io l'ho vissuto in un modo molto intenso il bowling, perché appunto avendolo lì vicino chiaramente era anche un luogo dove andavo, io andavo personalmente per andare a giocare con i giochi, perché c'era i giochini cabinati inteso, e la sala giochi, c'era la sala giochi immensa collegata, cioè. E c'era il bar, sì, infatti poi questa cosa del bowling in realtà avrebbe potuto far parte della puntata sui locali della nostra infanzia, certo. Però forse l'abbiamo anche fatto, infatti sì, l'abbiamo fatto, però diciamo che qua ne parliamo come sport, cioè che poi è comunque diventato uno sport, cioè, certo, ma cioè non credo, no, ha influenzato molto, influenzato, allora, comunque, più che influenzato in termini di reale cultura sportiva, poi sicuramente a qualcuno anche ha influenzato proprio anche il nostro modo di fare, no? Il nostro comportamento, il nostro modo di socializzare, anche perché come abbiamo detto poi tu andavi in questi luoghi dove sì, giocavi a bowling con le scarpette, con le palle e tutto quanto, però poi alla fine c'era, mangiavi, passavi i sabati, io mi ricordo in particolare i sabati ci passavi tutta la giornata, o sì, perlomeno andavi a prendere le scarpettine, quelle giuste che ti davano loro. Dovevi fare tutto che era un po' la cosa più schifosa della questione, lo so, però cioè, c'era questa vestizione, a meno che non c'avevi la tua scarpettina, insomma, ma penso che in Italia era pure difficile trovarle le scarpe da bowling, insomma. Direi proprio sì, era tutta roba americana, se vi ricordate AMF o Brusnich, le due marche più famose. C'erano i giocatori che dicevano: io preferisco il, come si dice, campi da tiro AMF, perché i Brusnich sono un po' più duri, cioè ci sono quelli che poi cominciano, no? È più liscio, funziona meglio, l'effetto funziona meglio sugli AMF. E mio fratello ci ha lavorato pure dentro come uomo che andava a sbloccare i birilli dietro. Quella è sempre stata una cosa che a me mi ha sempre inquietato, cioè nel senso, io penso la parte dei birilli con tutto il macchinario che tira su e roba del genere, secondo me penso che ce n'è morta di gente là dentro. Lato dietro era abbastanza, cioè tu da davanti vedevi questi birillini che scendevano e salivano, vabbè, ma dietro c'era proprio un coso rotante gigante, si vedeva che c'era qualche, perché lì già soltanto la gabbietta che li riprendeva, li raccoglieva, li metteva, cioè già solo quello mi terrorizzava, quindi figurati. E comunque spesso si bloccavano, e sarà bloccato anche a voi. L'omino doveva andare da qualche, doveva suonare un qualcosa, qualcuno andava la spia, e c'era sempre il coglione che tirava la palla durante quando c'è le cose, quindi. Lo sblocco. Comunque, in buona sostanza, tornando a Carlo, quindi i primi tre sport fondamentali che diciamo che insomma in qualche maniera hanno fatto rottura e ci hanno portato anche quel sogno che noi vediamo sui film e telefilm americani, esatto, erano esatto. Il baseball, in particolare il football, e poi ovviamente il, come abbiamo detto, il bullying, perché il bullying era una cosa proprio della cultura sociale americana che in qualche esatto. maniera ci ha influenzato moltissimo. Sì, questo era, diciamo, come stavo dicendo, il primo aspetto per cui sono entrati, quindi oltre alle TV private, come hai detto tu, l'influenza statunitense. Se vogliamo, poi l'influenza cinematografica statunitense fece tornare anche uno sport che da noi stava scomparendo. Prima abbiamo citato all'inizio che la box era tipica degli anni 50, quando c'era Primo Carnera, era qualcosa sì. che riguardavano i nostri nonni, e in realtà negli anni 80 tornò. Perché tornò? Tornò perché ci fu Rocky al cinema. Esatto. E quindi questo fece poi tornare la passione della box anche in Italia. Quindi Italia che poi c'ha anche una signora tradizione dal punto c'ha di vista. C'è una tradizione, ma se ci ricordiamo, negli anni 70 era quasi scomparsa. Sì, cioè sì. Stava andando a. Infatti, la grande tradizione è ritornata dagli anni 80 in poi. Dagli anni 80 in poi, diciamo, col mito di Rocky. E qua c'è un link, un collegamento non solo con il Rocky cinematografico, ma anche con il Rocky Joe cartone animato televisivo. La cosa più triste mai vista. Che però, ecco, qua introduce il secondo tema che secondo me ha influenzato anche lì tantissimo una gran parte di passione sportiva rinata in alcuni sport quasi comunque scomparsi, comunque che non avevano questo appeal, che sono state che se vuoi è diciamo una conseguenza di secondo livello delle televisioni private, cioè l'arrivo in massa degli anime giapponesi, di cui abbiamo già parlato in altre puntate, e sappiamo che gli anime giapponesi avevano tutto un filone dedicato agli anime sportivi, sì. No? E gli anime sportivi quindi arrivarono in Italia e portarono con la passione di vedere gli anime la passione per gli sport che rappresentavano, sicuramente quello del calcio, ma quello non c'era neanche bisogno di dirlo, lì fu quasi la nostra passione del calcio che fece far diventare famosi gli anime, cioè una cosa all'incontrario, come arrivano i Super Boys, il primo quello terribile, con Shinko Tatai, e poi dopo il famosissimo cartone del, come si chiamano, Ollie e Benji, Capitan Tsubasa, esatto, con il mondo rotondo, con i campi rotondi a forma di mondo, insomma. Però arrivò anche Mimi Aiwara con la pallavolo femminile, prima Mimi e poi dopo Mila Shiro di seguito, che portarono tutte le ragazze a voler giocare a pallavolo. Cioè, forse abbiamo una passione così elevata adesso nella pallavolo ancora per la rendita che abbiamo avuto dal successo di queste due serie animate che arrivarono in Italia. Penso anch'io, penso. Diciamo che ha influito, allora, diciamo, non assolutizziamo questa cosa, diciamo che ha influito in questa cosa. Secondo me, io mi ricordo che negli anni 80 tutte le ragazze volevano giocare a pallavolo perché c'era il cartone di Mimì. Certo, ma non i ragazzi, poi, però. No, infatti sto dicendo le ragazze, pallavolo femminile specificato. I ragazzi invece si differenziavano, cioè a parte il calcio, per esempio nelle arti marziali. Noi abbiamo avuto negli anni 70 una, diciamo, partenza con una diffusione elevatissima del karate e del kung fu per colpa di Bruce Lee e dei film di Bruce Lee negli anni 70, che fece una popolarizzazione di questo sport elevatissima. Ma negli anni 80 inizia ad avere successo un'altra arte marziale che prima era quasi, non dico sconosciuta, ma sicuramente secondaria, che è stato il judo. Vi ricordate che tutti facevano judo, almeno io avevo judo o karate, almeno tutti quasi gli amici. Io ho fatto karate, devo dire la verità, non ho fatto judo. Anch'io ho fatto karate, però c'erano tantissimi che facevano judo per colpa, tra virgolette, di Judo Boy, il ragazzo. Judo Boy, ve lo ricordate il cartone animato? Judo Boy Judo. E non usare la violenza, è quello, bravissimo. E quello, secondo me, ha dato anche lui una grandissima, diciamo, leva a molti a andare a fare judo, perché era un cartone animato in Italia molto molto seguito. E sempre in questo campo voglio ricordare altri sport magari minori, però tanti ragazzi dell'epoca, il golf è sempre stato considerato uno sport da ricchi, no? Tra virgolette, quello che non può, cioè che fanno solo i miliardari, eccetera. Sì. Ma ci fu un momento in cui fu un pochino più popolare in Italia anche tra altre fasce, e portò poi a qualcuno anche ad avvicinarsi al golf, o almeno un amico che è diventato poi un campione di golf, per un cartone animato che si chiamava Tutti in campo con Lotti. Sì, sì. Chi se lo ricorda? Sì, no, vabbè, me lo ricordo, ma non, cioè il golf mi annoiava di suo, figura del cartone animato, insomma. Però alcuni che si appassionano. No, ma sicuramente, cartone sicuramente animato, poi decisero di provare ad andare a giocare a golf, e qualcuno. Allora, diciamo anche una cosa importante, perché noi poi dopo abbiamo questa visione un po' nerd egocentrica della cosa. Diciamo che alcuni sport sono proprio arrivati televisivamente in Italia, in qualche maniera, insieme all'influenza dei cartoni animati, anche l'influenza dei vari personaggi importanti, anche delle varie leghe, del golf, insomma tutti quei personaggioni importanti che portavano, che diventavano dei brand, diventavano insomma delle figure importanti. A quel punto comunque la cultura italiana sportiva si è diretta verso tantissime altre direzioni, compreso il golf. Io citerei anche un cartone animato, però, che non cita mai nessuno e che l'ho postato adesso. Io ne ho uno che io l'ho postato adesso. Non so se era quello che hai postato. Guarda quello che ho postato io, perché secondo me tra gli sport il tennis anche un po' ha recuperato, diciamo così. Ah sì, Jenny la tennista. Sì, certo. Jeremy e Jenny, destra sinistra, sinistra destra, era una porcata anche questa. Insomma. Anche se in realtà sul tennis io vorrei dire una cosa, perché il tennis, perché in Italia, abbiamo detto prima, era molto popolare negli anni 70 per il fatto che avevamo dei campioni assoluti, ma negli anni 80 hanno avuto anche secondo me una grossa influenza i videogiochi, perché il videogioco del tennis era uno di quei videogiochi che, oltre a quello del calcio, ci giocavano tutti, se vi ricordate, almeno per me era così, non so voi se avete avuto che era anche quello più simile alla televisione, se tu ci pensi, esatto, perché comunque esatto. Ma quale videogioco? Io con le television c'erano tanti. Tu avevi qualsiasi videogioco, piattaforma, avessi, l'Atari, sì, l'Intellivision, lo Spectrum, il Commodore 64. Sì, ognuno aveva il suo gioco del tennis. Ognuno aveva il suo gioco del tennis che era giocatissimo. Cioè uno o più giochi. Era tennis, no? Il pong era ping pong. È diverso. Il ping pong, diciamo che lì ho segnato comunque che in Italia ha avuto un grosso momento di rilancio e di successo, ma è stato più verso gli anni 90, quando ci fu il film con Tom Hanks, Forrest Gump, con Forrest Gump, dove lui giocava a ping pong. Secondo me lì ha dato, cioè mi ricordo che c'è stato proprio in quegli anni, tutti hanno iniziato a giocare a ping pong, così, perché ping pong dei nostri cari amici cinesi che vincono a manetta ogni volta, insomma, ho visto delle gare, cioè, non riesce a stargli dietro, è una cosa folle comunque, cioè il ping pong a livello professionistico. Sì, il tennis, sì, secondo me è tanto anche fatto i videogiochi nel tennis, però sì, poi però sì. Diciamo che il tennis è anche un po' un ambiente un po' particolare, perché è uno sport elitario come l'equitazione, no? Cioè comunque ce l'hai per, se, sì, il golf sì, ok, ma il golf deve proprio piacere, cioè nel senso invece il tennis, cioè io per esempio tante volte ho visto delle partite di tennis e pure quelle sono delle palle mostruose, no? Ad esempio, se tu consideri che il tennis è molto più tradizionalista come sport, ad esempio tu prendi la palla a volo, ha avuto dei cambi dal punto di vista regolamentare per agevolare la velocità del gioco, per diciamo accorciare i tempi delle partite, perché dal punto di vista televisivo era un po' complicato, che il tennis per esempio non ci ha avuto. Cioè, ad esempio, una volta tu ti ricordi che con la palla a volo, se tu battevi e quell'altro ti facevano punto, era cambio palla, prima di fare il punto. Quindi cambio palla io, cambio palla tu, cambio palla io, cambio palla tu, queste partite non finivano mai. E quindi praticamente adesso ogni volta non esiste più il cambio palla, cioè il cambio palla più il punto, quindi cioè ogni volta ogni azione è un punto. Ecco, questo il tennis per esempio non l'ha quasi mai subite queste modifiche dal punto di vista regolamentare. Però ecco, diciamo che in generale questi sono sport che in qualche maniera già esistevano anche un po' da noi, escluso il baseball o chiaramente il football americano, ma gli sport proprio quelli più esotici. Sì sì, ci arriviamo. L'ultimo lo dico prima vai. Che ce ne dimentichiamo, che secondo me è una cosa che non ci pensa mai nessuno. C'è uno sport strano che in realtà in Italia non era considerato uno sport, ma dai miei ricordi ovviamente, poi potete correggermi se ovviamente ritenete che sia diverso, che è una cosa che penso io, ci fu un cartone animato che era Sanpei, ve lo ricordate Sanpei? Quello della pesca. Bravissimo. La pesca, che era considerato un passatempo, mi ricordo che all'inizio degli anni 80, almeno per quello che ricordo io, dopo Sanpei, o comunque non so se fu quello, ma tanti ragazzi sicuramente iniziarono a iscriversi alle gare di pesca. Da me era iniziato proprio, almeno io mi ricordo, nei dintorni anche di Milano, che dice Milano non c'è il mare, però ci sono tanti, i laghi, cosiddette i laghi, i fiumi, le cave si chiamano, sì. Da noi. Le cave, che erano delle grosse buche che venivano fatte per inizialmente per il materiale per costruire le case, rimanevano queste buche immense che poi venivano riempite di acqua, ci facevano allevamento di pesci per la pesca sportiva. Poi ci facevano le gare di pesca sportiva, sì, quindi tu andavi a fare le gare di pesca sportiva alle cave, no, e mi ricordo che ci andavano molti ragazzi dicendo, volendo imitare Sanpei, cioè andavano a fare da noi questa cosa, la no, gara di pesca, insomma. Questa cosa nel Lazio, a Roma no, cioè devo dire la verità, non mi è mai capitato e non l'ho proprio mai sentito che la gente andava a fare, e penso che Sanpei forse è stato proprio il castellano proprio meno seguito in assoluto, però anche qui vedi che ci sono sempre delle differenze, no? Il regionalismo d'un tempo, no? Cioè, nel senso, certo, che certo, sì. Certo. Guarda, sia il baseball che un altro sport che avete citato prima, quel baseball per esempio, io qua a Milano non sapevo neanche che esistesse praticamente, se non che è uno sport americano, mentre invece a Parma, dove io sono di Parma, no, nativo, e quando andavo a Parma invece sembrava di essere in un altro mondo, cioè per loro il baseball era lo sport nazionale quasi. Sì sì, l'ho detto prima quando sei scomparso, okay. Perché volevo farlo dire a te, ma tu eri scomparso, esatto, sì. Quando eri caduto. Perdono, niente, comunque questo appunto per accentuare, per seguire quello che diceva Simone sul discorso regionale, no? Sì, sì, sì. È così. No, infatti. Rimanendo sul ricordo regionale, hai scritto un'altra cosa tu su Milano. Invece, esatto, sì, su Milano. Io ho passato parecchi anni negli anni 80 a sempre nella sera decidere dove andare, andiamo al bowling, andiamo qui, andiamo là, andiamo a vedere la pelota. Che quando l'ho detto a Simone, Simone ha detto: che cacchio hai mai sentito in vita mia? Infatti, continuo a non averla sentita, ma. Esatto, e comunque c'è qualcuno ha scritto, ma pensavo avessi scritto tu Simone, invece no, l'ho scritto Carlo, io. L'ho scritto che io. Si vede in un film di Bud Spencer, c'è un film di Bud Spencer che è pari o dispari, no? Sì, sì. Cioè, ci si vede una partita di pelota con il giocatore più famoso di quel momento spagnolo, e comunque era un gioco che assomiglia allo squash, però al posto che con la racchetta da squash si fa con una sorta di strana racchettona, una specie di artiglio, una roba strana insomma, però si gioca contro un muro e il rimbalzo sul muro, ognuno poi deve prendere la palla e ha un certo grado di libertà all'interno del campo e deve riuscire a prendere la palla con questa specie di artiglio strano a cucchiaio, prendere la palla e lanciarla sul muro, ed era uno sport che noi andavamo a vedere spesso, che poi in realtà era un po' un mezzo gioco d'azzardo, perché si andava là per scommettere. Quella corsa, sì, dei cavalli eccetera eccetera, sì, sì. Però io ero un ragazzino, ecco, c'era una foto di pelota, sì, l'ho trovata, sì. Che poi se vai a vedere, lo squash è uno dei sport con più varianti in assoluto, no? Perché ecco, io vedo sta pelota, oggi c'è il padel per esempio, va tanto, sì, di moda, no? Il padel, oggi non c'è una persona che non gioca a padel praticamente. adesso per tutti giocano a padel, e tu, è bello che tutti, se ci avete fatto caso, no, magari nel tempo voi avevate certi luoghi che erano campi da tennis con più o meno al chiuso, esatto, all'aperto eccetera, sì, sono tutti stati trasformati, sì, in campi da padel, sì, perché oggi al tennis non ci gioca più nessuno praticamente, quindi sì, che poi da un campo da tennis fanno quattro campi da padel o qualcosa del genere. Comunque, vabbè, questo era come coi cinema, no? Cioè i cinema giganti sono tutti, erano tutti diventati piccoli multisala con 4 sale piccole, piuttosto che sì. Comunque vabbè, sta pelota, vabbè, noi andavamo e io andavo non per scommettere, andavo a vedere, e ti, vi dirò che insomma era anche abbastanza emozionante, anche se poi dopo un po' di volte che lo vedi sembra quasi tutto prefabbricato, perché è un gioco di scommesse e quindi alla fine tutto sommato credo che fossero molto pilotate, certo, le gare. Le scommesse ci sono in tutti gli sport, però sì, ce ne sono alcuni dove magari si nutrono di più, diciamo, come la cosa, cioè, si finanziavano con quello, probabilmente, certo, sì, qualcosa di tanto regolare magari non era, insomma. Esatto, la corsa dei cavalli era magari un po' più complicato gestirle, no? Questa qua era molto facile, perché la persona poteva fare un errore, era, ci no, te, un non te crede, non te crede che pure un ambiente dei cavalli è terribile. Comunque non ne parliamo di queste cose, no, perché, no, insomma. Era comunque una realtà sportiva anche il cavallo dei nostri tempi, eh. Adesso ormai sono quasi, sì, spariti come si chiamano, dove i ippodromi. I ippodromi sono quasi spariti, se ci pensate. Però ai nostri tempi, perché ha assunto una dimensione diversa il mondo del cavallo, cioè nel senso si è più disgregata in piccoli eventi piuttosto che l'eventone grosso, capito, tipo il, appunto, con la grande corsa dei cavalli che si faceva una volta con i botteghini fuori, che tu andavi a scommette e via dicendo, insomma. Che poi, tra l'altro, adesso è più una roba artistica, c'è le gare. No, io per esempio sono stato un po', perché con Matteo per anni lui faceva le gare e via dicendo, si andava nei vari circoli, ogni circolo organizzava praticamente l'evento che faceva parte del tour federale, e quindi insomma valeva per il punteggio globale, insomma, non è che c'era più, capito, la... Però è vero pure che è proprio, insomma, anche sport diversi, perché una cosa è proprio la corsa dei cavalli, e una cosa invece è il salto ostacoli, tutta questa serie di cose. Quando mi dici corsa di cavalli, adesso mi avevo da morire da ridere pensando, non so se l'avete vista la notizia, che lo sport del cavallo a bastone è diventato uno sport nazionale in Finlandia. Bello, carini. Non l'avete vista questa? No, l'abbiamo vista. Vi giro un'immagine che fa morire da ridere. Praticamente è diventato uno sport famosissimo in Finlandia. Praticamente ci sono queste ragazze e ragazzi che vanno con il tipico cavallo finto, quello col bastone e la testa di cavallo, che fanno la corsa, saltano gli ostacoli, eccetera. C'è Maurizio che dice che nell'ippodromo di Pisa sono arrivati a fare corse con 3 cavalli piuttosto di riempire la giornata domenicale, insomma. Sì, che poi in realtà esistono ancora gli ippodromi, però certo non c'hanno più quella vita di una volta, anche perché poi comunque anche lì era tutto un po' collegato a situazioni, insomma, soprattutto chi si ricorda Febbre da cavallo, il film, insomma, sì, tutto sommato non si discostava dalla realtà. E poi lì pure c'erano sempre grossi fenomeni di ludopatia, gente che andava veramente con i mazzi dei soldi a scommette sui cavalli. Adesso abbiamo le slot, le VLT, molto meglio, certo, certo, molto più pulito, almeno non c'è la puzza di cavallo, esatto. Va bene, e quindi riprendo un attimo il filo del discorso, perché quindi siamo arrivati sicuramente al fatto che ci fu un'influenza dal punto di vista televisivo, dei cartoni animati, televisivo dei telefilm, come abbiamo detto prima, televisivo del cinema, cioè degli spettacoli cinematografici che portavano personaggi e popolarità a determinati sport inesistenti o più o meno esistenti. Però in tutto questo, quello che poi all'inizio ci ha fatto iniziare, diciamo, a pensare al tema di questa puntata è uno sport in particolare, che poi molti dicono sport tra virgolette, però effettivamente lo è, che arrivò da noi proprio negli anni 80 grazie ai circuiti televisivi, ma arrivò proprio come sport, che fu il catch. il catch arrivò da noi, il catch che adesso è conosciuto come wrestling, che poi dopo abbiamo imparato. Posso fare una domanda su sta cosa? Perché sì. Tu sostieni realmente che il catch e il wrestling fossero veramente lo stesso sport? Perché sì. Io penso che il catch fosse come tipo di lotta un po' più realistico di quanto il wrestling poi è diventato con le varie leghe, che oramai è diventato, non so, ma cioè, questo perché è diventato uno show dopo e basta, perché, cioè. Lo era anche prima, lo era anche con, sì, si chiama catch wrestling, è proprio uno sport, il wrestling è il catch, è proprio un sì, non... è lo stesso identico sport, uguale, spiaccicato, stesse regole. Poi c'era, da noi è arrivata prima la lega giapponese, che da noi è arrivata perché è arrivata prima la lega giapponese, perché le televisioni giapponesi pescavano, le televisioni italiane private pescavano a man basse dagli spettacoli giapponesi, da noi è arrivato credo l'unica sigla che adesso tu hai anche a disposizione, vero Simone? Sì. Se non ricordo male. Sì, sì. Che puoi mettere, così almeno la scopriamo quale sigla. Se lo incontro in gran paura, fa il suo volto alla maschera tigre. Tigre. Tigre. Misteriosa la sua identità, è un segreto che nessuno sa. Chi nasconde quella maschera tigre. Tigre. Tigre. Vabbè, comunque è così. Questo è l'uomo tigre, cartone animato che parlava della storia di questo catch. Lottatore, del catch, insomma, sì, di questi incontri di lotta, che era il cartone animato più violento della storia del genere umano. Come lo era il catch, tra virgolette. Sì, però sul cartone animato la gente moriva per davvero, insomma. Sì, diciamo che lì il catch era più spettacolo. Comunque il catch che è arrivò in Italia anche la Lega Pro Wrestling Association giapponese, fondata da Antonio Inoki. Antonio Inoki! È recentemente scomparso proprio qualche giorno fa. Salutiamo il nostro caro amico Antonio. Chissà perché si chiamava Antonio poi? Si chiamava Antonio perché in realtà era un nome d'arte, Antonio, ovviamente. Insomma, il nome di tutti i giorni. Lui si era appassionato di, perché lui era andato a vivere all'età di 17 anni in Brasile, la famiglia era giapponese e si era trasferita in Brasile per motivi di lavoro del padre. In Brasile, come tutto Sud America, il catch, la lotta, il wrestling era molto famoso, è molto famoso anche adesso. L'idea degli uomini mascherati arriva dal Sud America, dall'Argentina, dal Brasile, è lì che l'hanno inventato, ok? E lui portò questo. È un po' la cultura alla Zorro, tu dici? Sì, un campione famosissimo degli anni 50 era Antonino Rocca, che era un italo-argentino. Beh, sì, dal nome. Rocca era un italo-argentino che faceva il wrestling in Sud America, molto, molto famoso. E lui, essendo appassionato, Inoki, appassionato di questo sport, prese il nome di Antonio, proprio in onore di Antonino. Ah, figa, figa sta storia, bello, bello, bello. E quando andò in Giappone creò la lega wrestling giapponese, che è il catch, che poi da noi è arrivata di conseguenza in quegli anni 80, in cui da sì, che noi è arrivato prima, è arrivato prima il catch, esatto. Esatto, e mentre sia nel Sud America che negli Stati Uniti c'era già. Infatti noi iniziamo a conoscere i campioni del wrestling americano, come erano Hulk Hogan, Andre the Giant, li iniziarono a vedere e conoscere per la prima volta grazie al Giappone. Cioè da noi non arrivarono direttamente dagli Stati Uniti, ma arrivarono prima dal Giappone e vedevamo gli scontri che fecero in Giappone Inoki contro Andre the Giant, Inoki contro Hulk Hogan, e li vedevamo nella televisione italiana, televisioni private italiane, come scontri di catch giapponese, di wrestling in Giappone. Dopo, negli anni voglio ricordare due cose importanti. Uno, che se cercate su YouTube c'è un, ci avete presente quando facevano quei film Mazinga contro Godzilla, per dirti, sì, no? Cioè quelle cose. Ecco, voi se andate su YouTube cercate Antonio Inoki versus Mohamed Ali, cioè Mohamed Ali, sì. Che era la box contro il che era una cosa meravigliosa. E infatti dice che da lì nacque l'MMA, l'MM, come cazzo si chiamava? MMO, sì, esatto. Sì. Che Mixed Martial, e quindi insomma anche. E poi voglio ricordare anche una cosa molto personale, perché c'era una collega di mia zia che aveva questa madre molto anziana siciliana che aveva 94-95 anni, e a lei non gli fregava un cazzo. Lei, quando c'era l'ora che c'era il catch, non gli, cioè, il telegiornale, cose, notizie, la salute, non gli importava niente, lei doveva vedere il catch. E poi okay, stava lì, che era bellissimo, perché parlava sto siciliano stretto, non si capiva un cazzo, e stava lì che commentava, si infervorava, era bellissimo. Parlava giapponese anche lei. Alla fine, secondo me, parlava giapponese pure lei, sì, può essere una cosa del genere. E comunque questo è l'inizio che poi ha portato il wrestling in Italia, e che si ricollega al nostro inizio, perché chi ha commentato poi in Italia, chi è diventato il commentatore dei primi incontri di wrestling statunitense portati sulle TV private italiane, Italia 1, sui canali della Fininvest, iniziarono a portare il wrestling americano, fu Dan Peterson. Dan Peterson divenne la voce che commentava, certo, i primi incontri di wrestling. È vero, che gli ha dato una magia in particolare, sì, perché noi italiani, ma disabituati a tutta sta manfrina, perché poi alla fine, cioè nel senso, rispetto al catch giapponese, il wrestling quando è arrivato era già tutta una pagliacciata, poi fondamentalmente lo è sempre stato, e senza comunque un telecronista che gli dava quel giusto brio, quella giusta verve, e anche quel fascino esotico, d'un accento, no, americano, che comunque per noi era una cosa strana, diciamo, ha creato secondo me quel binomio che alla fine ha fatto innamorare i ragazzini. Perché io mi ricordo che quando andavo a scuola non c'era un ragazzino che non faceva le mosse del wrestling, cioè. E questa cosa che mi ha fatto impressione è che se la sopportate i ragazzini anche fino a una decina d'anni fa, mo io oggi non lo so perché, però Matteo a scuola ancora facevano, e c'era addirittura un evento a Roma al palazzetto dello sport dove non fa, e tutti questi ragazzini che volevano, e ce li portavamo per vedere il wrestling con wrestling, insomma, tutti gli eroi, insomma, del momento, piuttosto che quelli che magari c'erano allora. Alcuni sono anche sopravvissuti addirittura. Sì, questa è un po', diciamo, la storia di questo strano sport che è iniziato a diventare popolare da noi, da un riflesso giapponese, insomma, dal Giappone, poi siamo ripassati agli Stati Uniti e poi siamo, beh, comunque, ritornati qua. Tutto merito da Antonio Inoki. Tu, Davide, il catch dove vedevi Antonio Inoki? Io l'ho vissuto, forse sarà stato nel periodo sbagliato per vari motivi, sia per età per interessi. In quel momento il catch praticamente non l'ho mai guardato, cioè ho visto l'esistenza del catch, ma quando lo vedevo lo dicevo che non aveva scopo, cioè una roba proprio inguardabile. E ancora di più il wrestling tuttora, anche adesso, cioè, sì, secondo me il wrestling il wrestling è quell'impressione, quando arrivò quello americano pure a me, cioè non ho mai trovato l'interesse per quella cosa, perché era troppo rumorosa, era troppo, si vedeva proprio che era fatta apposta per fare proprio il circo. Invece, esatto, secondo me, fino a che c'erano gli incontri di Antonio Inoki, li guardavi perché lui era un personaggio, poi, cioè lui era, cioè per me quella era, quelli combattevano per davvero, cioè nel senso non ci ho mai avuto la percezione che fosse finto, capito? Che anni, era, che anni erano? Perché era, io era finto, stranamente anni 80, faccio anni 80, fatica a ricordare, faccio ricordo. Io mi ricordo avevo sempre l'annunciatore 82 83 fino alla fine allora probabilmente era più una cosa, era più una cosa che faceva scattare le scintille magari ai ragazzi. Ai ragazzini, io avevo già, certo, quasi 20 anni. No, sì. Io avevo 12 anni e io con i miei amici in classe delle elementari, prima delle medie e dopo, ci davamo certe mazzate facendo finta di essere Tiger Mask. Anzi, anzi era più vero i combattimenti che facevamo noi. Certo. Sì, mettevamo i materassi, mi ricordo venivano da me, io avevo un cortile, no, che a casa grosso, e mettevamo i materassi vecchi e c'era uno che faceva il telecronista e noi Antonio, schiacciati, menavamo a botte da oggi. Sì, la cosa bella è quando te mettevi sul muretto e te lanciavi contro quello per terra. Esatto. Tanto eravamo bambini, potevamo cadere, sì, da tutte, ma pure le parti, se te rompevi te riaggiustavi, poi non è che è un problema. Devo dire che comunque il mito di Antonio Inoki era dovuto anche lì dal contorno, perché ogni volta che tu accendevi la televisione sentivi lo speaker dello stadio, no? Che faceva proprio, lo chiamava Antonio, capito? Quel modo là è tutta la gente impazziva, proprio un disibiglio proprio, e quindi questo doveva essere proprio qualcuno, no? E poi tra l'altro mi dispiace anche, insomma, che ci ha lasciato, anche 79 anni, insomma, alla fine l'ha fatta la sua vita. Non era, cioè era anziano, ma non era vecchissimo, insomma, no, cioè. Però comunque ha fatto. Sì, poi il successo che ha avuto è stato mondiale. Sì, esatto. sì, sicuramente mondiale, perché è arrivato in Italia, ma l'Italia per come mercato, per, no, sì, ma poi dopo ci sono state le mille contaminazioni, cioè quelli andava a combattere con quell'altro dall'altra parte, poi cioè dopo chiaramente poi sai con gli americani diventa tutto show business, no? E ma come diceva Carlo, magari già lo era sicuramente già in partenza, sì. Però poi dopo diventa un mischione, no? Non so se vi ricordate la cosa bellissima del wrestling, forse la cosa più bella in assoluto è quando facevano i Rainbow, no? Quindi, cioè praticamente che combattevano tutti contro tutti, 3 o 4, tutti 5 o 6 dentro al ring, che seminavano, sì, e se schisse uno si tirava sopra l'altro, che dovevano andare a turni e passarsi la e mano, poi dopo facevano scorrettezze, cose, no? Scorrettezze finte, ovviamente. Finte. No, sediate. Però quelli erano i doppi che tu davi il cambio, ma invece ci stavano proprio dei combattimenti che erano tipo 2 contro 2 nello stesso momento, cioè, o 3 contro 3, non mi ricordo, cioè, a volte c'erano delle porcate, cioè proprio un porcaio, e quella era una figa da vedere, perché comunque ridevi, cioè te faceva ridere, se stavi insieme agli altri amici ridevi, e poi mentre lo vedevi lo facevi pure tu, guarda chi ha fatto, gli saltavi addosso, capito? Cioè, ecco, vabbè, questo, sì, questo ha cambiato molto, era spettacolo, sì, sì. Allora, esatto, detto più sport, che sport tra virgolette, esatto, sport tra virgolette, questo che poi comunque per fare quello che facevano loro sono comunque degli atleti allenatissimi, sì, sì, sono ultra professionisti, cose, sì. Anche perché poi per farlo senza farsi male è più difficile che farlo facendosi male, quindi sì, anche se c'è una brutta tendenza negli ultimi anni che è quella della lametta, no? Siccome che giustamente negli anni questa cosa del wrestling che tutti si corcano e nessuno si fa male, cioè nel senso anche se rimangono sdraiati però vedi che non c'hanno ferite, non c'hanno niente, invece negli ultimi anni c'è un po' questa tendenza di farsi le ferite, di farsele da soli, no? Perché per simulare non più da tanti anni, quindi purtroppo sta cosa poi dopo non so se l'hanno cancellata, cioè l'hanno bannata sta cosa, però c'era un periodo in cui, capito, magari c'avevano delle lamettine, se facevano dei piccoli taglietti si vedeva il sangue, per far uscire un po' di sangue, sì, esatto, però insomma comunque gli sport chiaramente più sono spettacolari ovviamente più hanno successo, e quindi quando c'è spettacolo c'è successo, che lo sport sia bello, brutto, funzioni, però se c'è spettacolo, quella Formula 1 finché c'era spettacolo era uno sport della Madonna. Sì, l'hai scritto tu quello, esatto, prima, quando c'era meno sicurezza, però tra quando c'era meno sicurezza, quando c'era meno regole, la macchina la potevi fare come volevi, cioè, allora era sì, abbiamo diventato una una pagliacciata quella. Adesso è diventata la roba che è praticamente buona per dormire, cioè proprio solo buona per ti guardi dopo tre giri ti chiudono, si chiudono gli occhi praticamente. Deve succedere proprio qualcosa di straordinario, perché sennò no. Io per esempio il discorso sulla spettacolarizzazione, questa è una cosa che noi abbiamo imparato proprio negli anni '80. Gli americani poi sono dei maestri, perché se tu pensi soltanto al football americano, cioè il football americano non è, che cos'è se non il rugby portato all'ennesima potenza, con milioni di regole in più, con un tatticismo estremo, e questi vestiti da pupazzoni, poi, cioè, perché alla fine da, cioè, gladiatori, da pupazzoni, dai, mi viene dato proprio da pupazzoni, perché cioè tu stai a fare uno sport di squadra e stai in campo col casco, la cosa non può che non promettere bene, cioè, nel senso, è molto violento, sì, dai. Ma è violento, però, capito, come il rollerball, che sembra quasi la trasposizione del come si chiama, del football americano su rotelle, dove la gente si andava ad ammazzare. Il rollerball era uno sport inventato in un film. Era uno sport inventato che poi a un certo punto, secondo me, lo è diventato. No, sai cosa? Lo sai cosa? L'hockey su ghiaccio, fatto dagli americani. Allora, perché l'hockey su ghiaccio, come lo facciamo in Europa, in discorso, come lo fanno in America, un altro, lì veramente si menano, cioè lì si fanno proprio male. Esatto. Ed è una cosa per me ridicola, cioè, nel senso, è anche lì, capito, tu vai a fare uno sport di squadra con le armature, perché se spezzano le costole, danno le botte, poi ci sono i momenti di rissa, tra l'altro cose inserite anche all'interno dei videogiochi, no? Cioè, nel senso, sì, tipo, comunque i giochi che faceva Electronic Arts sull'hockey, c'è stava il tu dovevi cliccare, perché sennò c'era un momento in cui sennò quello te menava di più, e giustamente poi tu venivi penalizzato perché il tuo era menato, insomma. Ecco, tutte queste cose, questi sport che da una parte degli italiani storcevano la bocca, perché non li conoscevano, no, come sport, perché noi eravamo abituati a tutto un nostro mondo, e dall'altra invece i ragazzi sport li etico, no? Sì, che poi è una cazzata, però, cioè, nel senso, comunque, almeno, cioè, nel senso, non c'era gente che semenava in campo, poi dopo succedeva anche quello. E invece i ragazzi impazzivano per tutta sta roba, perché comunque era la novità, poi, fondamentalmente, che di solito è proprio il motivo per cui i ragazzi impazziscono per le cose, perché prima non c'erano, adesso ci stanno. Ecco, devo dire che, insomma, questo era un po' il punto focale di tante cose, perché io, per esempio, il football americano, io ero un po' bacchettone, eccetera. Per me il football americano, anche più del wrestling, era una pagliacciata. Poi, sì, ma infatti da noi ha preso il rugby e non il football americano, cioè. Sì, c'è anche il football americano da noi, però non ha mai esistente, praticamente non ha mai guaiato, esatto, insomma, in Europa in generale, o comunque nel resto del mondo, direi. Ma perché è uno scimmiottare una cosa che proprio non ha una cultura sportiva che fa parte delle nostre radici, capito? Il basket è un discorso diverso, ok, loro l'hanno iperprofessionalizzato e sono diventati dei campioni della Madonna, no? Però comunque, cioè, nel senso, il basket da noi oramai c'ha una certa rilevanza, forse è il terzo sport in Italia, se non il secondo forse, e quindi cioè, ce l'ha una sua radice, ci abbiamo avuto anche un'ottima tradizione dal punto di vista generale, anche con vari campionati internazionali, varie squadre dei club e via dicendo. Però non è l'NBA, ok? Però l'NBA non è nient'altro che un iper professionalizzazione, iper spettacolarizzazione uno sport che esiste pure da noi. Il football americano, secondo me, è proprio un mondo a parte. Cioè, il baseball e il football americano sono delle cose che loro si sono inventati per loro, e in effetti, secondo me, più di là non possono andare. Cioè, tant'è che quando loro fanno il campionato del baseball, non lo chiamano il campionato americano, lo chiamano il campionato del mondo. Cioè, perché il baseball in Giappone è molto, molto. Esatto, esatto. Molto il baseball non lo metterei allo stesso livello del football. Il baseball, a parte, come ha detto anche prima Davide, anche in Italia ci sono delle zone dove è molto giocato. Sì, e poi ci sono delle nazioni, dai, dove è molto giocato. Sì, Cuba. A Cuba, per esempio. No, Giappone. Giappone è sport principale. Cuba, Giappone, sicuramente sì, però, cioè, vedi, comunque, a livello al di fuori degli Stati Uniti, mentre il football americano no, quello effettivamente è solo lì, cioè, non esiste. Ma Maurizio ci ricorda che abbiamo battuto anche il Dream Team USA, non so quando. No, non è capace, sì. Nel baseball intendi? No, non il basket. Il Dream Team sarà basket. Nel basket, può essere. Beh, noi abbiamo avuto il grande campione che era italiano, poi è morto in elicottero, come si chiamava? Ah, Kobe Bryant. Kobe Bryant. Vabbè, era italiano, cioè, era americano. Beh, di fatto, cioè, adesso, no, adesso ne abbiamo uno che è nei Los Angeles Lakers, che è quotatissimo. Sì, ci stanno due o tre italiani, ci sono stati in NBA, sì, non è, il discorso è che sicuramente il nostro basket è cresciuto tantissimo, ma loro sono proprio concettualmente a un altro livello, no? Sì, ma non è una questione, cioè, noi abbiamo il campetto di calcio nel giardino, loro c'hanno il campetto campo di basket. Esatto, cioè, come nel senso che in Brasile nei favelas giocano a pallone e loro nei ghetti giocano a basket, fondamentalmente, insomma. Quindi poi alla fine è da lì che nasce, no? E il genio, la stella, diciamo, ecco, così. Esatto. Però il basket, cioè il basket, poi c'è stato un periodo in cui alle Olimpiadi, ad esempio, non potevano partecipare i professionisti, e poi era una gran cazzata, perché comunque gente che dedicava tutto l'anno a fare un certo tipo di sport era necessariamente un professionista. Però si distingueva dei professionisti tra quelli, i calciatori che guadagnavano i milioni, e magari il corridore dei 100 metri che campava di quello e insomma viveva di quello, insomma. Poi questo limite a livello olimpico è stato eliminato, quindi anche i professionisti o gli iperprofessionisti potevano partecipare alle Olimpiadi. Da lì in poi nel basket è stato un macello, perché praticamente quelli con una mano sola, cioè giocavano con una mano sola contro tutti, cioè, nel senso, e poi però qualche schiaffetto ogni tanto l'hanno preso, perché poi lì è anche un po' la supponenza, no? Quando tu sei il meglio del mondo. Ad esempio, un grande fenomeno degli anni 70 e 80, Carlo se lo ricorderà, sono proprio gli Harlem Globetrotters, no? Che facevano il tour per tutto il mondo e sono venuti anche in Italia. Era proprio spettacolarizzazione del basket. Esatto. E sono venuti pure a Roma, pure in Italia, quindi facevano più che altro i giocolieri del basket. Eh beh, certo. Beh, infatti erano gli Harlem Globetrotters, cioè, nel senso, no? Però era tutta cose che noi non eravamo abituati, capito? Cioè, nel senso, contesti che alla fine comunque in qualche maniera attiravano l'attenzione, perché c'erano il loro fascino, cioè tutte queste luci, questi colori, questo zompare, questo circo, no? Noi nel nostro sport, che era così serioso, no? Cioè, dove è tutto protocollato, tutto, capito? E invece lì, infatti, ad esempio nel calcio in Italia in particolare, la parte introduttiva delle partite di calcio di rilievo sono oramai 5, 6, 7 anni che hanno tutto il pre-show che in America c'hanno da 30 anni. Cioè, loro l'hanno sempre avuto, appunto, certo. Quindi, loro erano spettacolo sin dall'inizio fino alla fine. Perché c'avevano quel tipo di cultura là, cioè, nel senso, io sono andato a vedere uno spettacolo, no? Anche l'evento sportivo, no? Invece da noi no, da noi era sacro, era tutto serio, no? Capito? Cioè, ma lo è in parte ancora adesso, cioè, noi facciamo comunque fatica, cioè, non è che in televisione vedi il pre-show delle partite di calcio. No, in televisione no, però se tu, ecco, per esempio, insomma, negli ultimi tempi alcune squadre in particolare fanno proprio eventi prima, cioè, quindi c'è una specie di preconcerto, di cose, poi dopo c'è tutto il gioco di luci quando entrano i giocatori, cioè cose che da noi, cioè, nel senso, nel basket io le vedevo quando avevo 10 anni, cioè, nel senso, nel baseball c'è mica il terzo tempo, la roba del genere. No, rugby, quello è rugby. Il rugby c'ha una cultura sportiva dell'altro livello, eh. Io mi ricordo che ho visto tantissime partite dell'Italia di rugby al Flaminio. Sì, esatto, allo stadio Flaminio. E mi ricordo che c'era in particolare un'Italia-Scozia che vincemmo noi, tra l'altro, che io stavo in mezzo ai scozzesi e se siamo divertiti, cioè, loro facevano il tifo per loro, noi facevamo il tifo per noi, però, cioè, è proprio il clima che è diverso, cioè, capito? Invece in una partita di calcio tutti esacerbati, io ti spacco il culo, vengo lì, adesso ti strappo tutto. Invece lì, capito, dopo se tutti a bevi, oppure la sera li rincontravi al pub, beh, è bello, è tutta un'altra mentalità. E le squadre fanno la stessa cosa, finita la partita, comunque è finita la partita, mai acciaccato, mai corcato, mai rotto un braccio, roba del genere, non fa niente, dopo tutti insieme a... E questa è una mentalità, d'altronde, cioè quando stiamo lì siamo nemici, però non siamo nemici per davvero, siamo nemici perché c'è la partita. Questa mano può essere ferro o può essere più, essere più. Va bene, per concludere, visto che si sta facendo tardino, ci sono solo due altri sport che ha aggiunto alla fine, che io francamente uno soprattutto me l'ero completamente dimenticato e l'ha aggiunto giustamente Davide, quindi Davide, se vuoi segnarlo tu, è l'unico che sì, è rimasto fuori. Praticamente non abbiamo menzionato lo sci, ma anche lo sci è stato uno di quegli sport che non no, aspetta, scusa perché qui, scusa, ti interrompo, poi dopo ritorniamo. Maurizio scrive una cosa interessante e se ci ascolta ancora vorrei che mi rispondesse, perché lui diceva che Kobe Bryant offendeva gli arbitri in italiano, tanto non lo capivano. Negli Stati Uniti sì, lo offendeva in italiano. Cioè, quindi lui in America li offendeva, diceva figlio della mignota. Certo, tanto non capivo un cazzo. Grande. Che peccato, guarda, ragazzi. Lo so, Kobe è stata una gran perdita. Comunque su Amazon Prime c'è un bellissimo documentario, ragazzi. Vedetevelo perché è molto bello. Ovviamente un documentario italiano, quindi parla da lui quando c'aveva 10 anni, insomma. Dai 6 anni credo che fosse inizio. Comunque piccolissimo. Sì, sì, perché era il padre che giocava a basket in Italia, insomma. Sì, esatto. Vabbè, comunque stavo dicendo, sebbene l'Italia abbiamo avuto una cultura sullo sci abbastanza, sempre abbastanza marcata, non è che fosse uno sport di seconda categoria. Sì. Sicuramente però ci sono stati dei momenti in cui abbiamo avuto delle stelle e che hanno fatto sì che praticamente tutti siamo diventati sciatori improvvisamente. Poi noi qua nel nord, vabbè, avevamo un po' più facilitati perché per andare a sciare per noi si tratta di prendere la macchina e fare un'oretta e mezza di viaggio, sei già in posto per sciare. Molti altri hanno, ovviamente in Italia, magari hanno più difficoltà. Però mi ricordo che c'era un periodo in cui tutti andavano a sciare, sì. I miei amici, tutti sì. I miei ragazzini, tutti andavano, compravano tutta l'attrezzatura e la facevano per un anno, forse anche meno, e basta, poi dopo finiva. Ne hai scritti due in particolare, negli anni 70 c'era Gustav Töni. Sì, c'era Gustav Töni che tutti si ricordano. C'era la pubblicità dell'Ovo Maltina, se ti ricordi. Ecco, la pubblicità. Ovo Maltina diceva, faceva pubblicità dell'Ovo Maltina da Forza, dice Ovo Maltina da Forza. Un altro personaggio. Da fatte diverse di pubblicità, mi sa, comunque, dei vari prodotti. E poi vabbè, negli anni 80 Tomba, vabbè, sì. Poi quando quello ha fatto l'esplosione, per noi è stato sicuramente... Lui è stata una bella... È stato il motore per molti, è stato praticamente... Però io ricordo che già negli anni 70 c'era la moda in Italia, e questo sì. Anche faceva parte sì, proprio della nostra cultura, quella di fare la settimana bianca, vi ricordate? Avevamo Cortina, facevamo la settimana bianca, che mi ricordo che noi partivamo da qua... con i pullman organizzati, con una cinquantina di persone, erano i viaggi da speranza perché pareva su, ci mettevi 12-20 ore, insomma. Quindi, e stavi lì la settimana bianca, che era comunque diventata un po' una sorta di status degli anni 70, no? In qualche maniera. Sì, sì, è vero. Per il resto, io. Sono celebre da Fantozzi nella famosa. Io sono stato azzurro di sci quando si congelava. Per il resto, io cito anche molto velocemente le freccette, il biliardo, tutta una serie di cose che comunque negli anni 80-90, ecco, diciamo così, hanno cominciato a uscire fuori in televisione e tutti insomma un po' mitizzavano. Ce ne sono stati... Pensa che freccette e biliardo secondo me sono diventati sport veramente negli anni 80 o più avanti, perché fino a un certo punto era solo un gioco, non sì. Era uno sport. Le freccette anche sicuramente sono diventate uno sport ufficiale olimpico, anche e il biliardo pure, ma di recente, intendo negli anni 90 o 2000, prima era un giochino così, passatempo. E come ultima cosa ne hai segnato un'altra, Davide. No. In fondo, sì, hai segnato, vale la pena ricordare, anche se non agonistico. Ah, giusto, giusto, sì, hai ragione. Scusa, l'ho messo, l'ho fatto diventare verde perché me l'ho dimenticato. Vale la pena ricordare, chiaramente non era uno sport, ma per noi tifavamo come se fosse uno sport, e lo guardavamo con quello spirito. Era Giochi senza frontiere. No, però no, non lo devi dire, questo è uno spoilerone, ragazzi. Cioè, nel senso... Ah, ci vuoi fare una puntata apposta? Dai, su. Allora, l'avevamo detto pure, ragazzi. Insomma, dovete essere un po' più. Lo spoileriamo. Comunque, questo è sicuramente stato per gli italiani, quantomeno. Una cosa che sembrava per noi uno sport più che un... No, per gli italiani. Io penso che, insomma, alla fine c'erano tutte, sì, ero europeo, hai ragione, tutte ero le europeo. Nazioni che partecipavano, Gran Bretagna, c'era pure San Marino, partiva con la sigla, sì, Francia, Spagna, tutti, sì. Anzi, hai ragione. Quindi era interessante, ne parleremo di questa cosa, perché anche lì c'è un pezzo di cultura, secondo me, di quell'epoca lì, forse a livello un po' più globale, in un periodo in cui tu eri abituato a interagire, tra virgolette, con gli altri paesi solo con gli eventi sportivi, perché sennò di solito, certo, al massimo c'erano le notizie dall'estero. E se vi ricordate, questa è una cosa particolare, negli anni 70 e 80 il telegiornale si divideva proprio così, cioè tra notizie degli interni e notizie degli esterni, dagli esteri, che oggi non esiste più sta cosa, cioè nel senso oggi è tutto giusto. Oggi siamo in un mondo globale, esatto, quindi cioè nel senso notizie dall'interno e notizie dagli esteri è la stessa cosa, cioè nel senso più o meno. E però questo è un altro elemento, insomma, che aggiungiamo alla trasformazione culturale che c'è stata. E quindi io vorrei appunto dirvi, insomma, che faremo, non vi dico quando, insomma, ancora non lo sappiamo, una bella puntata su Giochi senza frontiere, perché Giochi senza frontiere ha rappresentato un momento importante, tant'è che secondo me era proprio, diciamo, il modo in cui gli italiani anche lo vivevano, poi non lo so come lo vivevano all'estero. E poi c'è tutta una serie di miti anche lì, personaggi storici che sono entrati nella nostra testa, che ancora ci ricordiamo, insomma, anche frasi, parole, cose, insomma, è bello. Giochi senza frontiere è un bel capitolo della nostra magari infanzia, perché ce lo ricordiamo, perché era un momento bello che condividiamo magari con la famiglia, insomma. Comunque io, scusa, volevo concludere con che praticavo di più di tutti, te l'avevo già detto in privato, fettuccine. Qual è lo sport? Io il mio sport era mangiare la Nutella, appunto, e tu dicevi, ho capito, ma che sport guardavi? Dicevo, guardavo gente che mangiava la Nutella. Sai che questa cosa mi viene sempre in mente una puntata di Tandem, dove c'erano questi ragazzini, vi ricordate Tandem, una trasmissione per ragazzini che facevano sulla Rai, dove c'erano questi ragazzini che a un certo punto dovevano fare sta sfida, dove c'erano tutti questi piatti pieni di Nutella e dovevano finire la Nutella con la lingua senza toccare il piatto, quindi Madonna, una zozzeria, esatto. A parte che oggi sarebbe illegale una cosa del genere, cioè, perché penso che puoi ucciderlo un bambino con una cosa del genere, cioè, nel senso, metti che c'ha un minimo di diabete, ma no, poi ne parlano al telegiornale, fa interventi Salvini, ma scherzi, certo. Però la cosa bella è che tutti questi ragazzi, soprattutto le femmine, con tutti i capelli sporchi di Nutella, cioè bello, si leccavano tutti, mamma mia. Altri tempi. Va bene, dai, ragazzi. Va bene. Poi comunque scriveteci nei commenti quegli sport, esatto, che avete conosciuto negli anni 70 e 80 grazie alle televisioni private. Ci aggiungiamo anche anni 90, va, che insomma, giusto per dare un po' più. Ci saremo sicuramente dimenticati mille. Una marea di roba. Era più per raccontare, insomma. Quindi scrivetecelo. Nel frattempo vi ricordo, insomma, che presto questa puntata sarà appunto disponibile in podcast. Vi ricordo anche che dovevo ricordarmi un'altra cosa e non me la sono segnata, quindi non ve la ricordo. Vabbè, dai. Okay. Continuate a seguire Runtime Radio, se avete la voglia, l'opportunità, andate su www.runtimeradio.it, che è di solito dove state già ascoltando questa trasmissione. C'è un pulsante, si chiama Anche Io, lì potete contribuire tramite una donazione singola su PayPal o tramite una donazione ricorrente tramite Patreon, un Patreon che a brevissimo sarà completamente riformato, perché ci metteremo le mani pesantemente in modo che sia più snello, più comprensibile. Lo avevamo aperto come un gioco una volta, invece adesso vogliamo far diventare insomma una cosa un po' più seria. Vi ricordo anche il canale YouTube di Archeologia Informatica, andate lì, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like ai video, insomma, perché non solo abbiamo fatto dei bellissimi video negli ultimi mesi, ma altri importanti ne verranno a breve. Quindi ricordo, insomma, quindi saluto intanto Carlo Santacostino. Ciao a tutti e grazie per averci ascoltato e alla prossima, che sarà tra 15 giorni. 15 giusto? Giorni, esatto. Non vi diciamo il tema perché lo dobbiamo decidere ancora fra di noi. E invece andate anche sul canale YouTube di Survival Hacking. Tra l'altro era successa una cosa, avevo trovato un qualcosa che era simile a Survival Hacking in un canale straniero. Ho detto guarda che secondo me stanno a rubare. Però poi non mi sono scordato di disegnarmelo, sennò te lo faccio vedere. Comunque. Io mi ricordo, penso che tu abbia trovato qualcosa con una specie di ascia, con scritto Survival Hacking con un'ascia o qualcosa del genere. No, non me lo ricordo bene. Però sì, c'era qualcosa. C'è in giro, ho trovato qualcosa anch'io, perché ogni tanto cerco per vedere se. Comunque niente, io vi saluto anch'io, vi ringrazio per essere stati qua con noi a chiacchierare di questo bel argomento. Vi ricordo sempre che domenica sarò alla Maker Faire di Roma, per cui ci vediamo là per chi è di Roma o per chi va a vedere quella manifestazione. No, ma io non ci vengo, te lo dico subito. Ma lo so. Cioè, ci sarei anche venuto per te, però purtroppo ho già degli impegni. Poi sapete che oggi è un mese esatto da quando ho iniziato a fare personal training, a cambiare vita, e ho perso 11 kg in un mese esatto. Insomma, è una botta incredibile. Ti si vede, ho visto oggi un paio delle interventi su Instagram, ma soprattutto si sente ritornato il ragazzino che ti di una volta. Beh, ancora un po' presdino, mancano ancora però c'è la faccina che sì. Ricorda, mancano ancora una quarantina di chili. So, purtroppo è così, però va bene, dai, grazie Davide, grazie Carlo, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato in diretta e quelli che ci ascolteranno in podcast. Scrivete commenti, suggerite anche se ci sono dei temi che vi interesserà insomma trattare prossimamente, o se addirittura se volete partecipare, magari suggerire proprio un episodio perché siete esperti di quella cosa e magari ne parliamo insieme e si può fare tutti quanti insieme. Ciao a tutti, ciao.